questa quella per me pari sono a quant'altri d'intorno intorno mi vedo del mio cuore l'intero non cedo meglio ad una che ad altra beltà la costoro apparenza è quel dono di che il fato rifiora la vita torna la vita, forse un'altra, domando sarà un'altra, forse un'altra, domando sarà. La costanza tiranna del cuore del che stiamo, quel morbo crudele, sol ti vuole, si servi fedele, non va amor, no, no, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le smanie, per rido, anco d'arrigo, i cent'occhi di sfido, se mi punge, una qualche beltà. Se mi punge, una qualche beltà. Thank you. bramate dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son l'indoro che fido m'adoro che sposa mi bramo chi ha nome mi chiamo chi ha nome mi chiamo voi sempre parlando così no. Offrir Thank you. olé.